Il tuo sorriso. Toglimi il pane se vuoi, toglimi l'aria, ma non togliermi il tuo sorriso. Non togliermi la rosa, la lancia che sgrani, l'acqua che d'improvviso scoppia nella tua gioia, la repentina onda d'argento che ti nasce. Dura è la mia lotta e torno con gli occhi stanchi, a volte, d'aver visto la terra che non cambia. Ma entrando il tuo sorriso sale al cielo cercandomi e apre per me tutte le porte della vita. Amore mio, nell'ora più scura sgrana il tuo sorriso e se d'improvviso vedi che il mio sangue macchia le pietre della strada, ridi, perché il tuo riso sarà per le mie mani come una spada fresca. Vicino al mare d'autunno il tuo riso deve innalzare la sua cascata di spuma e in primavera, amore, voglio il tuo riso come il fiore che attendevo, il fiore azzurro, la rosa della mia padre sonora. Riditela della notte, del giorno, delle strade contorte dell'isola, riditela di quel rozzo ragazzo che ti ama, ma quando apro gli occhi e quando li richiudo, quando i miei passi vanno e quando ritornano i miei passi, negami il pane, l'aria, la luce, la primavera, ma il tuo sorriso mai, perché io ne morrei.